cosa sei nella palì? Sì, ma tu è meglio sotto a me che sotto la macchina, cazzo. No, se devi scorrere dalla macchina, le fai su che andiamo. Su che andiamo, succhia e andiamo, yuhu! Fuga! No, ma passi i pantaloni, su che andiamo, bella! Ciao! E poi prendi e sgombri. Namo? Avanti Gianni! Gianni, un controllo, come ti arrivo in quella zona, Giuseppe? Guarda, stai arrivando a bomba qui Gianni, non ti posso dire altro. Gabba gabba, già va bene allora. Sta rifunzionando tutto bene allora. Cappa, qui arrivi a bomba sul canale 21 secchi, perché questo è un canale secchi. Avanti Antonio. Cappa, già va bene già. Io come vi sto arrivando a proposito? Perfetto. Santiago Rojo, Radio 5. Ehi, caspita, così tanto. 9.25 qua. Ma sono con il piccolino, sono con il 100 in macchina, Gianni. Ma arrivi così, non ti posso dire altro. 9.25, la Radio 5 a bomba. Me l'hanno portato ieri da Terralba, perché l'ho dato all'amico Luca, che avete sentito ieri, e niente, mi ha cambiato un finale, un condensatorino e qualche altra stupidata, dai, però me l'ha, diciamo che me l'ha fatto bene, dai. Mi ha parato. La Lancento Plus. Quello io l'ho mezzo regalato. Oh yeah, 50 euro per quello. Capa, io questo no, Gianni, perché è un valore affettivo per me questo apparecchietto qui. Vabbè, se è così. Io l'ho dato perché non mi piaceva, eppure esce bene. Ma non è a 100 plus, no, già. Era il 120 plus. Vabbè, già per me, dai, prendo la ruota. Su chi andiamo? Giuseppe sulla barrettina con la Lancento Plus e sta uscendo 9.25 Radio 5. Ah, vedi come sto scioppando bene oggi. Ma lei ha preso anche la legge? Negativo Gianni, negativo. Lo volevo dare al Pomponio per aprirmelo e lasciare l'Excel con i suoi canali, visto che domani mi doveva fare la modifica sull'apparecchio mio, lo sapevi? Però quello non glielo faccio toccare, perché il 400 canali ce l'ho già, mi hai capito Gianni? E gli chiedo per quello che ho pagato se mi può aprire da LC un pochino di questo e magari darmi qualche vitamina in più nell'altro e basta, e la chiudiamo così. Vedi tu, Giuseppe, sono tu gli apparecchi. Vedi tu che fare, non c'è problema. Invece io devo far vedere quel lineare che ho preso, perché non va bene alla massima potenza, non va bene Sassa, quindi quello non te lo posso dare ancora. Cappa, dai Gianni, non c'è problema. Sistemati bene tu per il momento, io posso aspettare, perché ti ripeto, non ho grossi cose in vista. Mi era piaciuto piazzarlo in macchina quel lineareto, però prima di darlo sistemati bene con la storia lì, perché qua ti giuro, e tu sai che ti puoi fidare di me, l'altro giorno stavo uscendo così brutto di radio Gianni, che io mai, da quando ti ho conosciuto qui in modulazione, niente, non ti ho mai sentito uscire così male, saturo, poi sembravi dentro una tamborlana. Ho capito. Bisogna cambiare le resistenze, mettere le più grosse. Cambiare le resistenze e così la saturazione tra tutti. Cappa Gianni, io adesso sai che cosa voglio fare se riesco? Prendermi questo benedetto trasformatore, così se domani riesco a trovare il buon Antonio e il buon Pierpaolo, le restituisco anche quella commissione là, perché guarda, veramente sono stati di una gentilezza acquisita, anche perché mi hanno permesso di poter uscire, dai, e continuare a sentirci. Cosa ti volevo dire? Comunque la GPC ce li hanno, quelli lì. Dove alla GPC mi hai detto? Ehi, a 747, i lineari sto dicendo. Pappa. Vediamo un pochino, secondo che prezzo mi fa Tonino va bene. Se no preferisco prima prendermi il trasformatore già. Sulle 55 penso che costa. Dai. Vediamo un pochino, se stasera mi dovrebbero dare una risposta per un trasformatore. Dopodiché vediamo, perché adesso mi devo dare un attimino una regolatina, perché giustamente, cosa ti posso dire, il più l'ho fatto, dai, e alcune cosette magari le faccio aspettare un attimino. Infatti, si può fare tutta una bottata, mi si è messa a posto abbastanza in fretta, dai. Natali, riprendi. Di quei trasformatori come te l'ho fatto vedere io, quello piccolino che c'ho io da 30 ampere, di quello lì devi prendere, che costa poco ed è di lusso. Giuseppe, capito là? Caffa Natalino, non sai quanto ho girato anche ieri io cercandolo, un trasformatore da 30 ampere, soltanto che tutti mi hanno dato picche, tutti passi come amperaggio. Ho detto via internet, devi telefonare a quelle comunicazioni e te lo mando, in 3 giorni è qua. Ciao Fagiani. Ma quanto viene quelle, aiutami a dire, ricordami come si chiama Natalie, perché ha un nome un po' strano quel trasformatore lì. Switching. Switching, è tipo su che andiamo, però soltanto che non me lo ricordo mai, switching, su andiamo. Suga! Vai che fra un po' il 21 diventa un canale erotico quando entra Capri 2 e guai, gli facciamo trovare le veline al posto nostro al microfono. Capra per poi l'ha fatto sognare anche la mia. Cioè, lo sai che avevo ragione di quella persona che ti ho detto l'altro giorno? Già ne parliamo di persona. Ha ragione a vero, dopo già ne parliamo di persona, già. Quando mi hai fatto chiamare da Franchetto, per dirmelo. No, te l'ho detto io di persona, chi era quella persona là? Non riesco a percepire in Italia. E già ne parliamo di persona, va. E bisogna eliminarlo, subito. Sì, quella che ho nominato io ieri sera, Natalie. Non so, ieri non c'ero io. E quello che modula la piattaforma, io non è che ho piedi sulla lingua quando devo parlare, Natalie. A me le persone negative, non so se era in ascolto ieri, ma quello che ho dovuto dirle gliel'ho detto tranquillamente. No, è un'altra persona, già lo so da Gianni. Già glielo dico io quando lo trovo, e c'avevo ragione quando dicevo così, e adesso ce ne ho avuto la conferma. Cappa Natali, dai, va bene così, e riprendi tu Gianni allora, dai, io vado a passare il beige un attimino nella macchinetta, se no va a finire che la presenza non me la segnano stasera. Gava. Cosa fai tipo? Cappa Gianni, qui non si muove foglia, se, come diceva il proverbio, che Dio non voglia, dai, una cosa del genere. Non cade foglia che Dio non voglia, si dice. Cappa, e qui da noi è la stessa cosa, si timbra in entrata, in uscita, in permessi, e se devi starnutire, e tutto così. Cappa, se mi conviene. Dammi lo riconviene. No? No. mezz'ora me ne dovrebbe pagare. Ma guarda, qui a noi ci pagano anche l'aria che respiriamo, ti dico la verità Gianni, perché ci sono 25 anni qui, non ti posso dire niente, anzi, e però funziona così, dai, e va bene così. Beh, ci sono delle regole, giusto rispettare. Oh, qui è passato un tipo, una fodetta, però mi ha fatto lo violino Gianni passando, cosa può essere? Un tipo? Il mio collega di lavoro, passato e mi ha fatto lo violino. Che se non posso dormire? E cappa di positivo. Me lo immagino. E mi conosci tu a me? E cappa, aspetta se riesco a beccarlo al volo, aspetta già. Ma ti bravo, bravo, se no non ti ripagani. Ha fatto il coperchio per l'acquario quello lì. Già lo so, già me l'avevi detto. Perché mia moglie ci metteva tutta la roba pesante, sopra c'era gran caldo, quella di plastica. E allora ho dovuto fare il retro e ricoprire con la cartanera. Prego un attimino per Giuseppe e Gianni. Avanti. Sto qui con me Giovanni, l'amico vetraio di Porto Torres che conosci tu. Te lo passo un secondo, cambio. Ciao Giovanni, hai capito chi sono? Innanzitutto buonasera, ciao, sono Giovanni, ciao Gianni. Buonasera, hai capito chi sono Giovanni? Negativo. Guarda, ti posso dare un indizio, mi hai fatto il coperchio quando lavoravi lì dietro a Santini, mi hai fatto il coperchio esattamente nell'acquario, che mi c'era rotto e me l'hai fatto il vetro ricoperto di carta nera adesiva. 8 anni ne ho fatto di questo lavoro già. Vabbè, comunque sono l'autista del tourist market, dai. E già ho capito, cioè, mi ha spiegato Giuseppe chi sei, infatti l'ho detto che tipo sei tranquillissimo. Cavagava. E quindi va bene, e sono qui già quasi 5 anni insieme a lui, insieme a Giuseppe. Ah, beh, se stai per il mezzo lì, hai fatto tu vai a sempre trovare il mito. No, io sto pensando una cosa, tu vieni a Porto Torres per andare a Sassa, io vieni a Sassa per andare a Porto Torres, facciamo scambio. Ma si potrebbe anche provare. Scherzo, naturalmente, io ci sono 29 anni, ho giovato. Quasi 30 ci sono, fra poco batto il record. Diciamo che sei quasi portorese, dai. Sto più a portorese, riassassi. Buonasera a tutti. Buonasera Pierpaolo. Oh, Antonio sono. Scusa Antonio, scusa, comunque buonasera. Buonasera anche a te. No, non sono riuscito a riconoscerti, chi sei? Io sono Giovanni da Porto Torres, comunque sono il collega di Giuseppe, l'autista. No, capo, sei tu di Giovanni, da Porto Torres, qui Antonio Popolo, capo. E oggi com'è andata la giornata?